Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e ben ritrovati. Ristrutturazioni e bonus fiscali, sì, ben ritrovati anche a loro, perché è un tema che occupa frequentemente la nostra trasmissione. Ci siamo, come dire, salvati proprio per il rotto della cuffia, ci siamo andati a ridosso, ma abbiamo deciso comunque di dedicare la puntata di oggi ad una scadenza fissata proprio per questa giornata, quella per presentare le comunicazioni per i lavori che danno diritto alla detrazione d'imposta del 55%, il cosiddetto bonus energia. Chi riguarda esattamente questa scadenza? Quei contribuenti che hanno intrapreso degli interventi di riqualificazione energetica del proprio immobile entro la fine 2010, lavori che però si concluderanno quest'anno o anche negli anni successivi. E allora qual è la comunicazione da fare e a chi va fatta? Entro oggi va inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica o direttamente o tramite degli intermediari abilitati. Va inviata questa apposita comunicazione con la quale appunto si specifica che i lavori sono a cavallo d'anno. Lo scopo di questo modello da trasmettere entro oggi è quello di consentire all'erario il monitoraggio degli sconti d'imposta in corso di maturazione da parte dei contribuenti suddivisi per ciascun esercizio finanziario. Io vi anticipo già che anche lunedì prossimo affronteremo questo argomento, perché esce sul tema complessivo degli sconti fiscali, delle agevolazioni fiscali legate alle ristrutturazioni, la guida pratica del Sole 24 Ore. Noi oggi vorremmo invece focalizzarci proprio esclusivamente su questa del 55%, il bonus energia, perché c'è anche un punto molto interessante che ha fatto l'Enea su tutti quei contribuenti che si sono avvalsi di questa opportunità negli ultimi anni, e quindi c'è un panorama anche molto interessante da analizzare. Intanto con noi stamane il nostro esperto fidato dell'argomento, esperto del Sole 24 Ore, commercialista Luca De Stefani, che saluto. Luca, buongiorno e bentornato. Buongiorno. E poi abbiamo l'ingegner Giampaolo Valentini, responsabile del gruppo di lavoro efficienza energetica dell'Enea, anche lui di nuovo con noi. Ingegner Valentini, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Chiaramente microfoni aperti agli ascoltatori, che possono interpellarci o interpellare soprattutto i nostri esperti all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima di farvi ascoltare la nostra scheda, andiamo un po' a vedere la borsa. È una giornata di nuovo piuttosto interessante. Ieri le borse europee hanno vissuto una giornata difficile. Wall Street ha chiuso bene con un rialzo di oltre mezzo punto sul Dow Jones, il Nasdaq addirittura ha guadagnato quasi un punto. Invece per l'Europa è stato un po' più difficile, perché Standard & Poor's ieri ha di nuovo fatto abbattere la sua scure sul debito sovrano del Portogallo e della Grecia, e sulla scia del nuovo declassamento del rating sul debito appunto del Portogallo, ieri c'è stato questo enorme balzo dei rendimenti dei titoli di Stato portoghesi, che sono arrivati a sfiorare praticamente la soglia dell'8%, in particolar modo anzi hanno sfiorato la soglia del 9% i bond a 5 anni. Il prossimo passo potrebbe essere quello di un ulteriore declassamento che porterebbe a livello spazzatura il giudizio appunto sui titoli di Stato portoghesi, con naturalmente a questo punto una prospettiva di totale allontanamento degli investitori da questi titoli. Oggi va un po' meglio, la borsa sta guadagnando lo 0,8% su Parigi, Francoforte più 1,45%. Londra più 0,37%, Milano più 0,68%. A Milano monitoriamo la galassia Fiat per l'assemblea degli azionisti appunto in programma a Torino. Ci sono già delle dichiarazioni anche di Sergio Marchionne, che dice di confermare tutti gli obiettivi del lingotto, che segnerà una forte crescita del business accompagnata da una robusta redditività. Ci sono anche delle indicazioni sulla politica dei dividendi, che Marchionne promette resta invariata e sarà pari al 25% del risultato netto. I titoli Fiat oggi vanno benino, per gli industrial più 0,40%, per i titoli SPA più 0,68%, quindi l'auto. Molto meglio va Exor, l'azionista di riferimento, che guadagna il 2,45%. I migliori titoli sono però il Banco Popolare più 3%, ieri il CDA ha detto l'aumento di capitale non lo facciamo e oggi il titolo rimbalza. UbiBanca, che invece lo farà e sarà di 1 miliardo, ieri ha perso il 12%, oggi recupera l'1,24%. Diasorin più 2,68%, promossa da una casa d'affari, Prysmian, sulla scia dei titoli un po' legati alle materie prime che vanno tutti bene, oggi in Europa guadagna il 2,60%, Mediolanum ha diffuso i suoi dati poco fa, guadagna il 2,51%, abbiamo Saipem più 2,24%, STM più 1,99%, per il resto vanno di nuovo malino tutte le altre banche, Intesa meno 0,46%, Monte dei Paschi meno 0,28%. Euro su dollaro 1,40,72, accantoniamo la borsa, andiamo al tema di oggi e parliamo appunto di un tema che vi piace sempre molto, il bonus energetico per la ristrutturazione della nostra casa. Tempi stretti per l'eco bonus del 55%. Entro domani, 31 marzo, tutti coloro che hanno iniziato i lavori nel 2009 e 2010 e che ancora non li hanno ultimati, devono comunicare le spese detraibili all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione delle spese effettuate deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, usando gli appositi moduli che si possono trovare sul sito. Ma attenzione, nel modello si devono indicare solo le spese sostenute e riferite al periodo di imposta 2010, anche nel caso in cui gli interventi fossero iniziati in periodi di imposta precedenti. In caso di mancato invio della comunicazione, si dovrà pagare una multa che varia tra i 258 euro e i 2.065 euro, ma non si perde il diritto all'agevolazione fiscale. Non tutti però sono tenuti ad inviare la comunicazione. Non devono infatti farlo coloro che hanno concluso i lavori alla data del 31 dicembre 2010 e chi non ha avuto spese soggette alla detrazione del 55% nel periodo di imposta 2010. Ricordiamo che la detrazione fiscale del 55% è stata prorogata ancora per tutto il 2011. Possono essere detratte le spese per gli infissi termici, per i pannelli solari e per le caldaie a basso consumo. Insomma, agevolazioni per tutte le spese che fanno ottenere alla casa una maggiore efficienza energetica. 800240024 è il numero verde per le vostre domande. Qualcuno penserà che stamattina mi sono bevuta qualcosa di molto pesante perché ho detto entro oggi va inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione nella quale si specifica che i lavori sono a cavallo d'anno, il 31 è domani naturalmente, quindi scusate, per cui avete anche ancora un po' di tempo per riflettere sulla procedura appunto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Allora Luca De Stefani, intanto buongiorno. Diciamo subito che dobbiamo non dimenticarci di una cosa importante, che per quello che riguarda la detrazione legata alla ristrutturazione che riqualifica dal punto di vista energetico la nostra abitazione, c'è la novità importante che se fino all'anno scorso questa detrazione la potevamo spalmare su 5 anni, da quest'anno invece c'è la variazione importante che la si potrà spalmare su 10 anni. Sì, è vero. La finanziaria ha prorogato fino al 2011 la detrazione del 55% per le spese sul risparmio energetico, però ha allungato il periodo di ripartizione del vantaggio fiscale. In pratica per tutte le spese che verranno sostenute quest'anno nel 2011 non vi è più la ripartizione in 5 esercizi, in 5 anni come succedeva nel 2009 e nel 2010, ma la ripartizione della spesa dovrà essere effettuata in 10 anni. La prima rata dovrà essere indicata ovviamente nella dichiarazione di redditi che dovrà essere presentata il prossimo anno di competenza del 2011. E insomma l'abbiamo specificato anche perché si è parlato a lungo della possibilità anche che questo bonus energetico venisse definitivamente cancellato, invece poi il governo lo ha ripristinato spalmandolo su un arco di tempo più lungo, ma insomma l'importante è che i contribuenti possano beneficiarne. Ingegner Valentini, dell'Enea, nei giorni scorsi l'unità tecnica efficienza energetica della vostra organizzazione ha pubblicato il rapporto 2009 sulle detrazioni fiscali del 55% che contiene l'analisi dei circa 237.000 interventi di risparmio energetico che sono stati effettuati negli ultimi anni grazie proprio al meccanismo di incentivazione, e c'è anche un identikit abbastanza interessante dei soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, comunque quasi tutte persone fisiche se non ho capito male. Beh sì, il rapporto diciamo che fotografa un po' la situazione che abbiamo avuto nel 2009 e da questo rapporto si vede che effettivamente le persone fisiche per il 94%, quindi per la stragrande maggioranza, sono state coloro che hanno usufruito delle detrazioni fiscali. Le persone giuridiche ovviamente solo per il 6% ne hanno approfittato, e questo è anche un indice del grande successo che hanno avuto queste detrazioni direttamente proprio sul sulle famiglie e sugli utenti finali. Noi diciamo, abbiamo impattato più che altro sulla signora Maria, tanto per fissare le idee, ed è quello che abbiamo riscontrato nel 2009 e poi anche molto di più nel 2010, insomma, dai primi dati. Ecco, ingegner Valentini, che tipo di interventi riguarda la maggior parte delle pratiche ricevute da Enea? Beh, certamente quella più gettonata è la sostituzione degli infissi, perché è l'intervento più semplice e che è anche meno costoso, tutto sommato, che è circa la metà, diciamo, degli interi interventi effettuati, siamo sul 49%. Seguono per circa il 30% degli interventi la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, il 15% circa degli interventi riguarda l'installazione dei pannelli solari, e poi ci sono gli interventi più complicati e più costosi, cioè la coibitazione delle superfici opache orizzontali, quindi di pavimenti e soffitti e solai, e per il 4%, e infine il 2% riguarda la coibitazione delle pareti degli immobili. E insomma, sono delle cifre piuttosto interessanti, perché insomma teoricamente ci deve essere stata una bella spinta la riqualificazione energetica anche del nostro patrimonio edilizio, visto che comunque fondamentalmente poi queste misure mirano a questo, ingegnere, giusto? Non c'è il minimo dubbio. Direi anche che i risultati che abbiamo avuto nel 2009, che già sono abbastanza lusinghieri, saranno molto probabilmente, anzi sicuramente, superati alla grande nel 2010. Per cui si stanno concludendo gli invii all'Enea delle relative pratiche adesso, anche per l'invio delle pratiche che riguardano i lavori fatti nel 2010, domani è la scadenza ultima, il 31 marzo. A quel punto, quindi subito dopo, il 1 aprile, noi avremo almeno chiaro quante sono state le richieste di detrazione, quindi gli interventi effettuati anche tutto il 2010. Perfetto. Che però già possiamo dire che superano alla grande quello che abbiamo avuto nel 2009. Avete già una stima preliminare. Ottimo. Allora, ci dobbiamo fermare, ingegner Valentini, e lo dico anche a Luca De Stefani, perché abbiamo già la nostra prima pausa. Vi preannuncio già che ci sono tantissime domande da parte dei nostri ascoltatori. Questa conferma anche della tendenza che l'ingegner Valentini ci stava raccontando, e quindi cominceremo anche a rispondervi proprio sui vostri casi pratici, perché poi sono quelli che comprendiamo molto più facilmente. 800 24 00 24, continuate pure a prenotarvi. Allora, a tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi a Salvadanaio parliamo della scadenza per presentare le comunicazioni per i lavori che danno diritto alla detrazione d'imposta del 55%, il cosiddetto bonus energia, avviati negli ultimi 2 anni e non ultimati entro il 31 dicembre 2010. Allora, il nostro Luca De Stefani, vado a chiedere subito un aiuto per chiarire i dubbi dei nostri ascoltatori. Agostino ci scrive al 349-238-6666. Questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate va fatta anche se i lavori sono finiti entro il 31-12 dello scorso anno? No, assolutamente no, riguarda solo i lavori a cavallo di anno, quindi a cavallo tra il 2010 e il 2011, anche se iniziati precedentemente al 2010, quindi nel 2007, 2008, 2009, però la condizione necessaria è che ci sia noi lavori non terminati alla fine dello scorso anno. Ecco, nello specifico questa comunicazione che tipo di informazioni richiede, Luca? È molto semplice la comunicazione, deve essere compilato il tipo di agevolazione che si richiede, e quindi ad esempio deve essere barrata la colonna, il rigo relativo ad esempio alla sostituzione della caldaia oppure all'installazione delle finestre o l'installazione di pannelli solari. Deve essere indicato poi l'importo pagato lo scorso anno, quindi la spesa sostenuta pagata con bonifico bancario nel 2010, e poi deve essere inviato telematicamente. Ecco, ingegner Valentini dell'Enea, torno da lei. Naturalmente questa comunicazione che va fatta all'Agenzia delle Entrate non ha nulla a che fare con quella che va inviata invece all'Enea, che certifica che i lavori che sono stati eseguiti nella nostra abitazione danno il diritto all'ottenimento del bonus energetico. Certo, sono due cose completamente differenti. Della comunicazione all'Agenzia delle Entrate abbiamo già detto. Per quanto riguarda viceversa l'invio della pratica che testimonia il lavoro effettuato, si riferisce agli interventi che sono stati realizzati nel 2010 e che la cui comunicazione, la cui pratica doveva essere inviata entro 90 giorni dal termine dei lavori. Quindi praticamente l'ultimo giorno utile per realizzare questi interventi è ovviamente il 31 dicembre del 2010 e la comunicazione per questi lavori che eventualmente fossero terminati il 31 dicembre va inviata entro 90 giorni, quindi il 31 marzo. E quindi domani è l'ultimo giorno utile che chiude il ciclo del 2010, la campagna del 2010. Bene. Ingegner Valentini, mi scusi, io ad ottobre ho rifatto gli infissi di casa mia, sto raccontando un episodio vero, ho fatto tutta la misurazione del consumo energetico della mia casa, ovviamente mi sono avvalsa del tecnico che mi ha fatto tutta la pratica anche da predisporre per voi, l'ho inviata all'Enea a lavori ultimati a metà dicembre. Il fatto che non mi abbiate, scongiuriamo, faccio naturalmente le corna, contestato nulla, siamo ormai a fine marzo, questo implica che naturalmente ho un via libera di massima l'ottenimento del bonus energetico? L'Enea non dà riscontro sulla documentazione inviata, quindi non dice se va bene o se va male. L'unico requisito che occorre presentare per eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate in futuro è la ricevuta informatica che è stata ritornata all'utente dall'Enea con un cosiddetto codice CPID, sì, cioè codice personale identificativo, è un codice alfanumerico che testimonia l'avvenuto invio. Tutto qua, questo è sufficiente per testimoniare che è stata inviata la pratica nei tempi dovuti, prefissati. Chiaramente eventuali controlli su quello che è stato l'intervento o sulla rispondenza dell'intervento ai requisiti di legge sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Benissimo. Allora cominciamo con i nostri ascoltatori che hanno tantissimi casi da raccontarci. Cominciamo con quello di Valeria da Udine all'800240024. Valeria, buona giornata. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica. Io ho un quesito, penso, semplice. Sto sostituendo gli infissi. Ho pagato un acconto al fornitore, al posatore in opera degli infissi nel 2010, ma i lavori sono iniziati nel 2011. Mm-hmm. Ai fini della compilazione del modulo, primo, sono tenuta a presentarlo. Mm-hmm. Secondo, che data di inizio lavori indico? Allora Valeria, aspetti lì che se il nostro Luca De Stefani ha bisogno di ulteriori delucidazioni glieli diamo al volo. Allora intanto mi pare di capire, Luca, che sia un caso tipico di quelli che ricadono nel nostro tema di questa mattina. Sì, diciamo che la comunicazione va inviata se ci sono lavori a cavallo di anno. Ma se i lavori iniziano, non li ha cominciati, però non si dice, ha fatto l'acconto. Non c'è nessun problema. Abbiamo comunque la possibilità di detrarre questa spesa effettuata nel 2010 nella dichiarazione di redditi che si presenta quest'anno, quindi quella relativa al 2010, e comunque non va inviata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, perché comunque sono dei lavori iniziati e terminati nel 2011. Allora, per fare ancora un'ulteriore sintesi così capiamo bene, ammettiamo che Valeria debba spendere complessivamente 8.000 euro, nel 2010 ne ha versati 3.000 a titolo di acconto, su quei 3.000 però prende il bonus energetico spalmabile su 5-10 anni. Su 5 anni, su 5, perché li ha pagati nel 2010 e comunque il decreto del 19 febbraio del 2007 prevede che possa iniziare appunto a detrarre dallo scorso anno e quindi con la dichiarazione che presenta quest'anno ripartendo in 5 anni, a patto che attesti, dichiari che i lavori non sono terminati o comunque non ci sono lavori sostenuti e questa attestazione va comunque conservata dal contribuente. Benissimo, comunque insomma la cosa importante che dovevamo dire a Valeria è che non deve presentare entro domani la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate perché i suoi lavori non sono ancora iniziati. Esatto. Perfetto. Emanuele da Roma, buongiorno. Emanuele, accidenti, lo abbiamo perso, ma adesso lo recuperiamo. Abbiamo Ezio da. Ezio, buongiorno, non mi hanno scritto la provincia. Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Da dove ci chiama Ezio? Provincia di Vicenza. Beh, eccoci qua allora. Niente, io volevo chiedere, ho terminato i lavori nel 25 gennaio 2011, no? Sì. Ho fatto la comunicazione al CAF per appunto bonifico 2010, termine lavori 2011. Ho già fatto la dichiarazione al CAF, diciamo, per questa, però appunto adesso ho tempo dal 25 di gennaio, tempo 90 giorni per la comunicazione all'Enea. Sì, all'Enea sì. E adesso, bon, questo sì. Volevo, perché prima per aver capito che anche che la comunicazione all'Enea deve essere fatta entro il 31 marzo. No, abbiamo parlato di due cose diverse adesso, Ezio, allora le riepilogiamo un po' la situazione. Luca De Stefani, cominciamo magari con te intanto per quello che riguarda il compito, qualora lo dovesse adempiere Ezio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Lavori ultimati il 20 gennaio, credo tutto pagato prima. Sì, e lavori comunque a cavallo di anno, sì. Perché iniziati nel 2010, sì. Pagato nel 2010, ma concluso nel 2011, quindi sicuramente siamo nel caso classico dell'obbligo di invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate. No, tra l'altro avendo presentato tutto al CAF, Ezio dovrebbe essere salvo, si è rivolto già ad un intermediario abilitato, forse il CAF potrebbe aver già provveduto a mandare all'Agenzia delle Entrate questa comunicazione, però magari se ne accerta è meglio. Che dici, Luca? Sì, certamente, certamente è meglio accertarsi sicuramente di questo adempimento, che comunque è un adempimento particolare, diciamo, e va inviata all'Agenzia delle Entrate entro domani, 31 marzo, e non ci sono 90 giorni dalla fine dei lavori, cioè per tutti i lavori a cavallo tra il 2010 e il 2011 la scadenza è domani. Domani all'Agenzia delle Entrate, però lui è entrato in confusione quando abbiamo interpellato l'ingegner Valentini all'Enea. Ingegner Valentini, però dal 25 gennaio lui ha tempo 3 mesi per comunicare a voi, all'Enea, il fatto che abbia eseguito questi lavori che gli danno diritto al bonus energia. Esatto, per quanto riguarda l'invio non di una comunicazione ma della pratica che testimonia il lavoro effettuato, a tempo 90 giorni al termine dei lavori per inviarla all'Enea, quindi si è completato il 25 gennaio a tempo fino al 25 aprile grosso modo per inviarci la documentazione sempre telematicamente attraverso il nostro sito. Poi tra l'altro specifichiamo anche, ingegner Valentino, che più che una pratica dove si attesta che i lavori sono stati effettuati è una pratica all'interno della quale c'è anche la quantificazione del risparmio energetico che questi lavori hanno prodotto per l'abitazione. Sì, diciamo che però per quanto riguarda i lavori più semplici, cioè per la sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, questo calcolo del risparmio energetico viene fatto in automatico dal sistema. Quindi l'utente ci deve solo indicare i parametri. I parametri essenziali, cioè che tipo di infissi aveva prima della sostituzione, che cosa ha montato dopo e la trasmittanza del nuovo infisso, che generalmente deve essere rilasciata dall'installatore o da chi esegue il lavoro. Infatti dal tecnico che va appunto a fare queste misurazioni ci si può rivolgere anche in alternativa, ma in genere chi attualmente si è abbastanza attrezzato, chi installa gli infissi appunto si è attrezzato anche a fare questo lavoro adesso. Allora vediamo un po' se riusciamo a sentire un'altra persona, magari sentiamo la domanda e gli rispondiamo dopo. È Giovanni da Genova, buongiorno. Ah sì, Emanuele, lo abbiamo recuperato, sì, lo sentiamo dopo. Giovanni? Pronto, sì. Ci dica. Volevo chiedere, cioè non è proprio attinente al tema, se le persone giuridiche hanno diritto a questo 55%. Certo, no, e a tema è come, Giovanni? Tra l'altro abbiamo detto anche qualcosa prima, perché prima l'ingegner Valentini ci ha raccontato che cosa è successo in questi ultimi anni di bonus energetico, spiegandoci appunto che non moltissime, ma qualcuna lo ha fatto, persone giuridiche hanno chiesto questo incentivo fiscale. Però insomma le confermiamo tutto dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Allora, ingegnere Valentini, ritorno da lei perché con lei mi ero soffermata sul punto del beneficio fiscale, del bonus energetico per le persone giuridiche. Sì, certamente anche le persone giuridiche possono approfittare di questo incentivo. Quindi piccole società praticamente. Esatto, tutti coloro che hanno piccole società, artigiani, coloro che hanno la partita IVA, quindi tutti quelli che non sono persone fisiche, certamente. Quello che è importante è che il bonus si applica per il risparmio energetico nel riscaldamento invernale. Quindi chi ha necessità di riscaldare o di cambiare il riscaldamento della propria azienda, per esempio, è sicuramente titolato a usufruire delle detrazioni. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive: quando fate una trasmissione sulla cedolare secca, quindi tutte le misure contenute nei provvedimenti per il federalismo fiscale? Guardi, ne abbiamo già fatte, non appena avremo i dettagli definitivi su questa manovra, anche sicuramente appunto ci ritorneremo. Andiamo a Luca De Stefani. C'è un altro aspetto importante che molti ascoltatori ci stanno sollecitando, anche di questo abbiamo chiarito tante volte i termini, che vanno evidentemente ancora richiariti, e cioè: si possono accumulare il bonus energetico del 55% con quello che invece vale per le ristrutturazioni ordinarie, quel bonus del 36%? C'è un ascoltatore che ci scrive: se in fase di ristrutturazione prima casa vengono rifatti i serramenti e l'impianto di riscaldamento, si possono scindere i due aspetti in modo da ottenere il 36 e il 55? Purtroppo no, sullo stesso investimento non è possibile avere il doppio bonus, la doppia agevolazione fiscale, quindi devo scegliere il 55% e il 36%, ovviamente sceglierò quello più elevato per appunto gli investimenti di carattere energetico. Quindi se sto ristrutturando un'abitazione, solo sui lavori che riguardano il sui lavori che sto facendo, devo scegliere se appunto optare per il 36% o per il 55%. Andiamo a Emanuele da Roma, che invece ha insomma un problema di natura anagrafica, un problema no, perché mi sembra una persona molto in gamba. Emanuele, buongiorno. Buongiorno. Mi divertiva un po' il modo in cui ci ha posto la domanda. Io ho 77 anni. Sì. Vorrei cambiare gli infissi mettendo gli infissi termici. Questa spalmatura su 10 anni mi mette qualche perplessità, perché corna facendo dovessi morire nel frattempo. E queste detrazioni può farle mio figlio, che è un dipendente della CEA, per esempio? Sì, Emanuele. Allora, intanto, guardi, lei c'ha una vivacità che sicuramente fa in tempo a cambiare due volte gli infissi di casa sua e prenderli per altri 20 anni gli incentivi, a patto appunto che il nostro che lo Stato li riconfermi. Detto questo, Luca De Stefani, comunque la domanda è assolutamente pertinente. Lui dice: insomma, se non ce la faccio a beneficiarne per tutti i 10 anni. Certo. Come contribuente? Allora, può sicuramente sostenere la spesa il figlio, a patto che sia convivente con il proprietario dell'immobile o con il proprietario del diritto reale dell'immobile, quindi dell'inquilino o del comodatario. Quindi solamente se il figlio vive ancora con appunto il genitore può sostenere le spese e può avere la detrazione lui nella sua dichiarazione di redditi. Vincenzo da Napoli, buongiorno. No, buongiorno. La domanda è la seguente: bonus energetico del 55%, la pratica è stata effettuata al comune tramite un ingegnere, so che l'ha fatta all'Enea, i lavori sono iniziati fine dicembre, i primi bonifici sono stati effettuati per il pagamento tra gennaio e febbraio. La comunicazione deve essere comunque effettuata entro domani? Grazie Vincenzo. Luca De Stefani. Sicuramente sì, perché abbiamo periodo, cioè diciamo che non abbiamo fatto nessun pagamento nel 2010, quindi abbiamo dei lavori a cavallo di anno, quindi tra il 2010 e il 2011 non abbiamo nessun tipo di pagamento nel 2010, quindi non va fatta la comunicazione, perché la condizione necessaria è che ci sia sia i lavori a cavallo di anno sia i pagamenti nello scorso anno. Peraltro c'è una cosa importante che non abbiamo ricordato, e cioè: che cosa succede se questa comunicazione entro domani non viene presentata? Allora, intanto, ingegner Valentini, il bonus lo si prende lo stesso? Certamente il bonus si prende lo stesso, ma c'è una piccola multa che sarà combinata da parte dell'Agenzia delle Entrate qualora non venga rispettato questo obbligo di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate per coloro che invece devono, cioè per i lavori a cavallo, come diceva prima. Quindi non decade il diritto alla detrazione, ma una eventuale dimenticanza potrebbe comportare, Luca De Stefani, un'applicazione di una stanzione. L'ingegnere Valentini diceva piccola, sì, perché la minima è di 258 euro, ma si arriva anche a casi di oltre 2000 euro, mi pare. Sì, 2065 euro come importo massimo. Insomma, per chi volesse qualche dettaglio in più, ho anche gli estremi della circolare dell'Agenzia delle Entrate, che è la 21/E/2010. Quindi, insomma, visto che ce l'avevo casualmente sotto gli occhi, ho dato anche queste indicazioni. Andiamo a Giuseppe da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Posso fare una domanda? Certamente. Tanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Ecco, volevo chiedere, nel caso in cui c'è purtroppo una piccola quota nel CUD di versamento imposte e a me forse più favorevole detrarre in 10 rate anziché in 5, su spese però del 2010, posso scegliere o purtroppo sono obbligato a fare 5 anni? Giuseppe, grazie, anche questa è una bella domanda. Luca De Stefani, comunque, visto che oggi c'è un nuovo regime che permette di spalmare il beneficio, che permette, obbliga di spalmare il beneficio su 10 anni, perché comunque ha fatto i lavori prima, potrebbe eventualmente chiedere... Sì, si può fare, l'abbiamo scritto diverse volte nelle pagine del giornale, la maggioranza della dottrina insomma è concorde con questa tesi, che prevede appunto la possibilità di ritardare l'inizio della detrazione nell'anno della fine dei lavori, quindi nel caso del nostro contribuente si può evitare di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro domani, evitare di fare l'attestazione che i lavori non sono terminati alla fine dello scorso anno, attestazione da conservare, non da inviare all'Agenzia delle Entrate, e quindi attendere la fine dei lavori, attendere l'invio all'Enea della comunicazione apposita e iniziare a detrarre direttamente nel 2011, spalmando il tutto in 10 anni. E infatti, anche perché può essere un caso molto frequente che il contribuente non abbia una capienza fiscale adeguata appunto a rientrare di questa spesa. Allora, ingegner Valentini dell'Enea, ci manca un minuto di tempo prima di salutarci, le chiedo se, diciamo, dal punto di vista dell'Enea ci sono degli aspetti importanti relativamente a questa questione che abbiamo affrontato stamattina, che ci siamo dimenticati di raccomandare ai nostri ascoltatori, contribuenti che stanno ristrutturando la casa e stanno facendo appunto questi lavori per ottenere questo incentivo. Direi che abbiamo un po' esaminato tutti gli aspetti. Io posso solo raccomandare che l'unica cosa che per coloro che hanno completato i lavori o li completeranno nel 2011, quindi chi ha completato gennaio, febbraio, marzo, ha tempo 90 giorni per l'invio della pratica all'Enea, quindi non è, ci sono particolari scadenze entro domani. Valgono i 90 giorni dal termine per l'Enea, esatto. Però insomma, se siete nella medesima condizione e non avete fatto invece la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, verificate se magari l'intermediario a quale vi siete rivolti, il CAF o il commercialista, l'ha fatta per voi. Allora, sì, siamo già verso la fine della trasmissione, per cui è tempo di, come al solito, ricordarvi che la prossima settimana a Milano si svolge il Salone del Risparmio, date 6-7-8 aprile. È un appuntamento di Assogestioni, noi con la collaborazione di questa organizzazione stiamo invitando i nostri ascoltatori a chiamare la nostra segreteria telefonica che risponde al numero 800-28-1212, dove ci state lasciando e registrando le vostre domande sul tema del risparmio gestito. Qual è la domanda che vorreste fare al vostro consulente che non gli avete mai fatto e che quindi rivolgete a voi? Grazie all'ausilio dei nostri esperti abbiamo iniziato ormai da qualche settimana a rispondere ai vostri quesiti. Sentiamo quello che abbiamo scelto oggi. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Buongiorno, volevo un'informazione, volevo sapere se c'è un modo per poter controllare, verificare l'investimento che io faccio, che me ne dia i limiti, le caratteristiche, che mi permetta quindi di controllare esattamente quello che ho comprato. Grazie. È sempre consigliabile conoscere a fondo lo strumento nel quale si è deciso di investire parte dei propri risparmi. Per quanto riguarda i fondi, il prospetto informativo è un documento estremamente importante. È infatti l'unico strumento a disposizione degli investitori per comprendere l'operazione finanziaria che si sta valutando. Il prospetto contiene le informazioni necessarie agli investitori per pervenire a un corretto giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente, nonché sui prodotti finanziari nei quali si è deciso di investire e sui relativi diritti. La nuova disciplina comunitaria contiene l'obbligo di accompagnare il prospetto con una nota di sintesi, che deve essere letta come un'introduzione al prospetto stesso. Le domande del risparmio. E anche per oggi Salva Danaio termina qui. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie in particolar modo ai nostri ospiti Luca De Stefani, ingegner Gianpaolo Valentini dell'Enea. Noi ritorniamo domani. A tutti buona giornata.